Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma andavano davvero così le cose negli ospedali all'inizio del Novecento? Incredibile, incominceremo da questo. Lo vedremo. Intanto buonasera, benvenuti a tutti ascoltatrici e ascoltatori qui a Mebius. Poi continueremo a parlare di informatica per sole donne, per sole ragazze delle medie. E poi faremo un primo passo per cercare di capire più in profondità tutta questa vicenda delle inondazioni. Dunque andiamo a New York, intorno al 1905. Siamo in un ospedale che era denominato familiarmente dai newyorkesi The Knick, ma perché il nome intero era Knickerbockers Hospital. È il nome, insomma, dell'ospedale. E siamo e stiamo per parlare di una serie televisiva che è stata lanciata con grande rumore. C'è un regista molto in gamba che l'ha fatta, Steven Soderbergh, c'è un ottimo interprete che è Clive Owen e che fa questo chirurgo newyorkese. E che si intitola proprio come l'ospedale The Knick. The Knick, questa è la serie. Per parlare di questa cosa abbiamo qui con noi questa sera Gilberto Corbellini. Buonasera Corbellini. Buonasera a voi. Allora, storico della medicina alla Sapienza di Roma, ma insomma anche collega perché scrivi un sacco di roba che riguarda la scienza. E noi l'abbiamo chiamato perché dentro questo format televisivo, appunto ambientato primi anni del 1900, c'è tanta parte di storia della medicina e vogliamo capire se davvero si sono inventati tutto o se qualcosa di vero c'è. Perché noi siamo rimasti un filo sorpresi. Un po' basiti. Ecco, da come credo scene. Il 90% degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Allora, abbiamo preso qualche pezzettino, qualche audio. Esatto. Ascoltiamo una delle prime scene in cui ci sono due medici che stanno dialogando. Temperatura a 40 e mezzo, battito a 166. Ha vomitato 3 volte negli ultimi minuti. Temevo che la bronchite stesse di nuovo peggiorando. Non è bronchite, è setticemia. Gonfiore delle ferite, inizio di decolorazione. Le mie suture non hanno tenuto, si sta autoavvelenando. Riapriamo e troviamo la perdita. Noi? Un mio paziente, non suo. Non possiamo, la bronchite e l'etere lo uccideranno. Il tempo è prezioso. Sta morendo davanti ai nostri occhi. Possiamo risolverlo. Lei non risolve niente. Dottore, serve una resezione. C'è un pezzo che deve essere asportato. Le ferite dell'intestino sono suturate benissimo, ma il fluido settico fuoriesce nella cavità avvelenando il paziente. Ora il problema è addormentare il paziente senza ucciderlo. Non c'è un minuto da perdere. Scusatemi. Oh, dunque c'era anche un'infermiera all'inizio che dice che lui c'ha un sacco di febbre, vomita. C'è qualche problema, ecco. Ecco, il problema, ascoltatori... I medici non sono d'accordo, questo ci è chiaro. È evidentissimo. Il problema è che quando si vede il video, il malato è lì, tra di loro. Ed è vigile. È vigilissimo. Ecco. E c'ha una faccia, ovviamente. Com'è sta storia? Ma era così, Corbellini? Sì, era così, anche perché i pazienti, diciamo, da un lato, era così perché i medici si facevano meno problemi di quanti non debbono giustamente fare oggi, in quanto il contesto in cui la medicina operava, in cui i medici trovavano a lavorare, non era regolato da una serie di codici di comportamento particolarmente rigidi, o comunque i codici di comportamento miravano soprattutto a, come dire, garantire un qualche risultato per il paziente, non tanto a garantire un atteggiamento o di rivolgersi al paziente in modo politicamente corretto. Non esisteva ancora la categoria del politicamente corretto allora. E poi i pazienti non erano spesso, nella maggior parte di situazioni, i pazienti di oggi non avevano minimamente accesso a alcuna informazione medica, quindi certo, dire che uno rischia di morire piuttosto che no poteva essere un'informazione che loro capivano, ma se gli parlavano di setticemia o se gli dicevano qualsiasi cosa, non c'era alcun tipo di educazione o quantomeno di comprensione di quello che i medici dicevano. E comunque i medici erano dei datori dentro agli ospedali, quindi quello che dicevano, facevano, eccetera, nessuno s'azzardava a metterlo in discussione. No, è molto verosimile, assolutamente. Perché nella cultura del medico, come si dice, curavano i corpi e non i pazienti, non le persone. Non c'era l'aspetto psicologico, insomma, che un po' gioca adesso il ruolo. Beh sì, ma voi dovete considerare che erano, a parte che alcune cose che si fanno accadere nel 1900, 1905, come se fosse la prima volta, in realtà esistevano già da almeno un 20-25 anni, però tutto è molto molto verosimile e dovete considerare che anche solo l'antisepsi, cioè quindi agire per contrastare la diffusione di agenti infettivi nel contesto operatorio, è qualcosa che nella medicina esiste soltanto da 25 anni circa. E lì è interessante il fatto che un altro medico, il medico di colore che viene assunto da questo ospedale, abbia fatto il suo tirocinio in Europa e che in effetti porti dall'Europa tutta una serie di innovazioni tecnologiche e anche una serie di innovazioni scientifiche. No, tutto fatto molto, molto bene, devo dire. Ecco, senti Gilberto, a proposito di antisepsi, questi qui regolarmente facevano le operazioni in una specie di teatro con un 50-60 pubblico. Sì, con il loro vestitino di quei tempi. Ma era normale questo? Sì, era abbastanza normale perché comunque loro, era un contesto dove altri medici andavano a vedere le innovazioni chirurgiche, dove cominciava a esserci un costante rapporto tra attività ospedaliera e didattica, cioè quindi dopo che i medici avevano fatto una parte di attività imparando, magari andando nei laboratori o comunque studiando le scienze di base, poi sostanzialmente venivano subito mandati nelle corsie o messi a vedere gli interventi chirurgici. Comunque si riteneva che l'azione contro certi agenti che infettavano le ferite potesse essere comunque garantita purché si agisse in modo consistente localmente, e comunque tenendo l'ambiente spruzzato con acido fenico o con tutta una serie di altre sostanze antisettiche. Gilberto, abbiamo selezionato un'altra scena che adesso facciamo ascoltare agli ascoltatori. Si parla di epidurale e anche di un uso bizzarro della cocaina. Il paziente cocaina. È sempre lo stesso, è quello che stava male prima e che adesso lo operano. Di origine italiana. Infermiera Elkins, prepari un ago spinale e uno ipodermico da 10 con soluzione di cocaina al 2%. Signori, abbiamo un paziente affetto da setticemia intestinale. Normalmente indurremmo il sonno chirurgico con l'etere, ma a causa di una bronchite sviluppata in fase post-operatoria non possiamo. Dobbiamo operare, ma non su un paziente che sente dolore. La mia soluzione? Sedare la spina dorsale tra le vertebre toraciche 6 e 7 in modo da impedire al cervello di ricevere lo stimolo. Inietterò la soluzione di cocaina al 2% direttamente nel canale spinale del signor Gentile. Tanto in basso da evitare cuore e polmoni, tanto in alto da intorpidire tutto al di sotto. Mio Dio, resterà paralizzato? No, se raggiunge il canale nello spazio subaracnoideo. È già stato testato una volta su un Labrador Retriever. Com'è andata? Non passa giorno in cui non senta la mancanza di quel cane. Ecco, questo che tossisce è il paziente che ha percepito che c'è qualcosa che non va. È stato provato sul cane, purtroppo è deceduto. E mentre glielo fanno, gli dicono che è morto il cane. E sempre per via di questa grande sensibilità, no Gilberto? E soprattutto è vero che si usava, che la cocaina veniva impiegata anche in questo modo? Un po' in tutti i modi. Sì, un po' in tutti i modi, esatto, anche perché in effetti c'è da dire che il carattere, cioè il personaggio del chirurgo ricorda molto, chissà qualcosa di storia della medicina, un formidabile chirurgo, il più importante chirurgo statunitense negli ultimi anni dell'Ottocento, nei primi del Novecento, che era William Halstead, che è quello che ha creato il Medical School, che negli anni Ottanta dell'Ottocento ha cominciato a usare proprio la cocaina come anestetico locale, in modo particolare come anestetico che applicato a livello dei nervi riusciva a ottenere tutta una serie di risultati. Lui fece esperimenti insieme a un suo collega su se stesso anche con la cocaina e infatti poi divenne un cocainomane fino alla fine della sua vita. Lui dovette faceva uso della cocaina, ma anche perché faceva una vita incredibile, lui operava in diversi ospedali, lavoro, cioè praticamente era sempre al lavoro in un costante stress, e non era raro, ricordiamo anche tutta la vicenda di Sigmund Freud, insomma, dei suoi rapporti con la cocaina, non era raro, insomma, che persone che dovevano fare attività particolarmente stressanti e comunque, insomma, che traevano poi un qualche beneficio assumendo questa sostanza, alla fine dell'Ottocento, infatti, non è una pratica sconosciuta neanche adesso, insomma, adesso magari non negli ospedali, non lo sappiamo, cioè. No, non lo sappiamo, no, però sappiamo che di furia qui c'è l'uso come anestetico e l'uso anche, esatto, infatti questo, esatto, dottore si fa un sacco, esatto, di cocaina nei piedi, si fa di cocaina e di oppio. La cosa interessante è che di notte si fa di oppio e di giorno si fa di cocaina per potersi calmare. Esattamente. Va bene, vabbè, comunque è fatto bene, vedetelo, è fatto bene. Deknik su Sky. Grazie Gilberto e buona serata. Buona serata a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'informatica non è materia per soli maschi e quindi nasce il progetto Girls Coded Better, cioè fanno il programma meglio. Sì, abbiamo deciso di dare voce a questo innovativo, diciamolo così, metodo di insegnamento e di formazione per i ragazzi, per le ragazze, soltanto le ragazze delle scuole medie. Ecco, è qui con noi stasera Costanza Turrini, buonasera. Buonasera. Benvenuta. Lei ha ideato questo progetto ed è responsabile di questo progetto, in realtà lavora per l'Agenzia per il Lavoro MEV Mentor, e insieme, insomma, avete costruito questo bel progetto. Intanto, se ci racconta di che cosa si tratta, è vero che l'informatica non è materia per soli maschi, allora? È vero che l'informatica non è materia per soli maschi, anzi, noi possiamo vedere che le ragazze che si sono iscritte a questo progetto sono state 350 su 10 scuole, quindi sappiamo che le ragazze vogliono avvicinarsi al digitale e noi stiamo offrendo dei laboratori per fare in modo che le ragazze si possano avvicinare con grande divertimento e possano acquisire delle competenze digitali estremamente importanti, perché noi andremo a programmare. In tre città, no? L'iniziativa, allora, sta muovendosi. Noi saremo a Milano, siamo a Milano con 5 scuole, a Bologna, a Reggio Emilia e a Modena. Ah, 4 città. Sì, in tutto sono 10 scuole, quindi abbiamo selezionato 160 ragazze, siamo nella scuola, un docente e un maker in ogni laboratorio aiutano le ragazze ad avvicinarsi al digitale e trasferiscono delle competenze. Aspetti, allora, magari non diamo per scontato, allora è la prima volta che un maker entra nelle classi, però forse non tutti sanno che cos'è, quindi magari due parole per definirlo. Certo, allora un maker è un tecnico, è il fabbricante digitale, è la persona che riesce attraverso il digitale a costruire degli oggetti, quindi stampanti 3D, utilizza le stampanti 3D, laser cut, è una persona che riesce a creare dei prodotti, dei manufatti. Questa persona conosce la tecnologia e quindi la porta all'interno delle scuole. L'altra persona invece è un insegnante, un educatore che meglio conosce la didattica, perché è fondamentale per noi l'impianto costruttivista per arrivare a questi progetti. E quindi queste due persone per la prima volta insieme dialogano con le nostre 16 ragazze in ogni laboratorio. Ecco, però potrebbe esserci un fraintendimento: non è vero che queste ragazze partono a realizzare magari degli oggetti con le stampanti in 3D. L'obiettivo è insegnare loro a lavorare con dei programmi, a costruire dei programmi, no? Poi dopo arrivano anche all'applicazione. Progettare e programmare proprio. Certo, assolutamente. Loro imparano a programmare. Potrebbero anche non avvicinarsi alla stampante 3D perché realizzano un'app. Mm-hmm. E potrebbero realizzare un video piuttosto che realizzare un sito web. L'importante è che imparino i codici che stanno al di sotto, quindi che stanno dentro alla programmazione. Loro imparano questo linguaggio che servirà per successivamente programmare qualsiasi cosa. Quindi per noi è importante questo, che ne capiscano la logica della programmazione. E il fatto che siano studentesse delle scuole medie è, diciamo, una scelta strategica, perché insomma è il momento di scegliere poi il percorso di studi, insomma. Certo, è proprio un'azione di orientamento. L'abbiamo fatto per orientare le ragazze ragazze a prendere in considerazione delle scuole successivamente anche in ambito scientifico e tecnico. Sappiamo quanto è importante per il futuro questo tipo di formazione e quindi vogliamo dar loro la possibilità di scegliere consapevolmente. Costanza Turini, credo che sia importante capire che il vostro lavoro non è tanto per sensibilizzare le ragazze a una scelta di facoltà scientifica, che certo è comunque qualcosa che è, come dire, è un risultato inevitabile di questa vostra attività, ma proprio perché si focalizzino sul fatto che anche loro possono fare programmazione informatica, che quello certo è un dominio piuttosto maschile. Certo, noi sappiamo, abbiamo degli ultimi dati che dicono che le donne sono grandissime utilizzatrici di tecnologia, ma non la sviluppano. Rimane ancora un ambito estremamente maschile, quello dello sviluppo dei software, della programmazione, quando le donne in realtà si stanno avvicinando all'utilizzo del digitale e dell'informatica, rimangono ancora un pochino penalizzate nel cambiamento che potranno fare invece in futuro. Bene, va bene, benvengano allora iniziative importanti di formazione come la vostra. Per chi volesse in qualche modo contattarvi, se c'è qualche insegnante all'ascolto, cosa fa? C'è un sito? Sì, c'è il sito che è www.girlscodeitbetter.it, ci sono tutti i riferimenti, noi stiamo già selezionando le scuole per l'anno 2015-2016 e sono già tante quelle che si sono offerte a ospitare uno dei nostri corsi. Bene, allora in bocca al lupo. Grazie, buon lavoro. Grazie, buonasera. Cerchiamo di capire un po' più in profondità come stanno le cose con le inondazioni che ci aggrediscono, nel caso di dirlo, da qualche mese. Facciamo un primo passo stasera. A Parma qualche giorno fa c'è stata la riunione dell'autorità di bacino del Po, che è l'ente più importante, insomma, che si interessa di acqua in Italia. Si sono conclusi i lavori, c'è una mappa del rischio da quale esce che 3.800.000 persone sono a rischio esondazione nel bacino del Po. Allora, abbiamo noi cittadini e cittadine una informazione sufficiente sul rischio? Di questo parliamo e lo facciamo con Francesco Puma, che è il segretario generale dell'autorità del Po. Le carte che noi abbiamo prodotto, che sono carte di inondazione, cioè individuano le aree che possono essere interessate da eventi di piena ed essere allagate, e anche poi le condizioni di rischio, devono essere trasferite, no, a diversi soggetti, e tra questi anche la cittadinanza. Perché in ogni caso, per quanto si facciano opere, no, per quanto i piani di protezione civile siano adeguati, bisogna che il cittadino abbia una propria conoscenza delle condizioni di pericolo a cui è esposto, sia con la sua abitazione che quando durante un evento si trova o nel posto di lavoro o a scuola, o va a prendere i bambini a scuola, o comunque sta camminando nella città, anche perché con queste precipitazioni intense non è sempre facile sapere, no? Quando si passa da una situazione tutto sommato ordinaria, come dicono i bollettini di protezione civile, a una situazione di particolare pericolo. Questo, l'informazione dei cittadini, sicuramente è la cosa più complicata. Questo che viene definito come ultimo miglio, no? Adesso un termine che sentiamo, si può pensare che sia un miglio di una strada, no? In discesa, in lieve salita. In realtà, anche alla luce degli eventi degli ultimi mesi, secondo me è un miglio, no? Il miglio che passa tra il campo base, no? E la vetta dell'Everest, quindi la cosa più difficile da realizzare, da raggiungere. Sono state fatte diverse proposte proprio per trasferire la comunicazione, per esempio operare nelle scuole, no? E spiegare ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di che cosa, no? Cos'è un rischio, come ci si deve comportare, che, in modo che possano anche trasferire a casa, ma non solo. Secondo me, se vogliamo avere dei piani di protezione civile realmente attuabili, questi piani vanno discussi, no, veramente con i cittadini, perché decidere se trasferire le macchine oppure no può essere una questione di vita o di morte, nel senso che si sale in macchina, solo se si è convinti e si sa che il contesto, no, in cui si sta è sicuro, perché sennò si può anche morire. Infatti, per esempio, abbiamo sentito molta gente che diceva: l'avessi saputo prima, anche una mezz'ora mi mettevo in macchina, la caricavo e salvavo magari quello che ho al piano terra, no? Certamente, però mettiamoci per esempio nella condizione che questo avvenga a mezzanotte, no? Quindi tutto buio, magari le luci non ci sono, i telefoni, come è successo di recente a Parma, no? Non funzionano, uno si mette in macchina magari portando dietro i bambini e si infila in una parte della città che invece è allagabile e non praticabile. Cioè, bisogna rendersi conto che bisogna sapere quali sono le parti sicure. Sicuramente nell'ambito della città i luoghi più sicuri devono essere le scuole, quindi bisogna su questo concentrarsi. Le scuole devono essere i posti più sicuri, sia perché durante il giorno ci stanno, no? I nostri figli, i nostri nipoti, sia perché possono anche diventare il luogo dove ci si raccoglie, soprattutto nei piccoli centri abitati, e si sta al sicuro dai terremoti e dalle alluvioni. Però per far questo bisogna che sappiamo quali sono oggi le condizioni di rischio e come mettere in sicurezza questi luoghi. Fa parte di questa cultura del rischio che dobbiamo assolutamente sviluppare noi tutti non addetti, fa anche parte la accettazione del fatto che questi fenomeni, certamente nella loro intensità, in alcune loro specificità, avrebbero potuto essere evitati o ridotti, ma che però non possiamo pensare di esserne esenti. No, anche perché il rischio ha due componenti, la pericolosità e la vulnerabilità. La pericolosità, tutto sommato, anche se abbiamo delle variazioni nell'intensità della pioggia, nella ricorrenza, più o meno rimane quella. Quello che cambia è la vulnerabilità, nel senso che noi continuiamo, anche se con ritmi minori, a occupare delle aree che non sono sicure oppure sono, no, parzialmente difese. Secondo me quello che dobbiamo capire è che stiamo parlando di territorio, che questo territorio, per quanto riguarda l'Italia, è stato costruito nei, no, 70 anni dal dopoguerra. La fase, no, di maggiore intensità si chiama boom. Il boom è la raffigurazione di un'esplosione che non è controllabile. Per avere questo territorio abbiamo speso dei grandi capitali. Per adattarlo alle condizioni di rischio ci va tanto tempo e ci vanno dei capitali che sono congruenti con quelli che abbiamo speso per realizzare questo territorio. È veramente una sfida, penso che sia veramente una delle maggiori sfide oggi in Italia. Sicuramente produrre una cultura del rischio e una politica di prevenzione. Si metteva in evidenza il fatto che il piano non può che essere accompagnato da un grande piano di comunicazione. Allora, noi abbiamo fatto il piano, ma non siamo in grado di fare il piano di comunicazione. Quindi un fattore centrale è che, per esempio, autorità come la vostra possano svolgere questa funzione di comunicazione. Qui come siamo messi in Italia? Ma faccio solo l'esempio di quanto è avvenuto in Francia per la direttiva alluvioni. Per produrre le mappe sono state destinate alcune centinaia di milioni di euro, una percentuale, il 30% di queste centinaia di milioni di euro è stata destinata alla comunicazione dei contenuti delle mappe, dei concetti alla base della quale sono state tracciate le mappe, degli obiettivi che si vogliono raggiungere. È stato creato proprio un canale televisivo tematico che si può consultare attraverso internet, che affronta ogni giorno questi problemi. Ma quindi voi come autorità non avete fondi per la comunicazione, non sono proprio previsti nel bilancio. Siccome noi operiamo sulla base di capitoli di bilancio dello Stato, nel momento in cui non c'è il capitolo specifico, la spesa non si può fare. Se si fa con altre risorse, si finisce sotto processo della Corte dei Conti. Qui in studio non piove e la nostra mail è... Per scriverci quello che volete, noi siamo a disposizione su moebius@radio24.it. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!